Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria in periodo di coronavirus. Faremo di nuovo il punto sul dibattito europeo, è prevista anche oggi una sessione molto molto lunga, non so, io spero di sì che si arrivi a un accordo, ma non un accordo penalizzante per l'Italia, al di là delle dichiarazioni molto ipocrite di solidarietà. C'è poi questo caso, o meglio un doppio caso, uno in positivo perché Der Spiegel ha fatto è un importantissimo settimanale tedesco, ha fatto un editoriale molto forte a favore della solidarietà, non criticando la posizione tedesca, e invece poi c'è Die Welt che si è messo a dire la mafia non aspetta altro che i fondi europei. A parte il fatto che Die Welt mostra una conoscenza molto scarsa della mafia, che non ha bisogno dei fondi europei per operare in Italia come in Germania, mi sembra veramente che ci siano alcuni giornali in Germania, ma non solo, che stanno dando il peggio di sé in questi momenti, cioè qualunque tipo di stereotipo sta uscendo fuori, ma comunque ne parleremo. Per quello che riguarda invece la parte italiana, qui noi continuiamo a mantenere un doppio binario tra la partita a livello europeo e invece quello che poi deve fare l'Italia da sola. Allora, se da un lato apprendiamo, ed è una buona notizia, che il decreto imprese, quello per la liquidità, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra quindi in vigore, è quello che contiene le misure, le garanzie statali per il credito alle imprese fino a 25.000, poi fino a 800.000, poi fino a 5 milioni, e invece fa intervenire la SACE per le imprese più grandi, dai 499 dipendenti, dai 500 dipendenti in su, e questa è la buona notizia. Ci sono molte polemiche invece su quello che sta capitando sulla platea dei 600 euro, i professionisti, le partite IVA, perché dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale viene precisato che l'indennità spetta agli iscritti in via esclusiva alle casse private, non titolari di trattamento pensionistico. È una novità che, da quanto capiamo, blocca i pagamenti di parte delle domande di accesso al sussidio presentati agli enti. E cercheremo di capire che cosa è successo, anche perché tutto può, per carità, nessuno ha la bacchetta magica, però abbiamo chiesto massima chiarezza nella stesura di questi documenti, evitare figure come quella dell'INPS quando si è aperta la possibilità di fare la domanda online, e velocizzare la parte burocratica. Allora, se il governo ha i tecnici al suo interno, bene, se no chiede aiuto, e qui torniamo all'idea di una task force più ampia, di un gruppo di lavoro più ampio, ma non solo per la parte fiscale, per la parte del bonus da 600 euro in generale. C'è il tema delle aperture, adesso si sta lavorando, il decreto del governo dovrebbe arrivare sabato, riguarda non tanto le aperture, riguarda la proroga del lockdown, del contenimento, per altre 2 settimane, cioè sostanzialmente si arriva per le persone fisiche, per tutti noi, a dopo il 1° maggio, cioè si vuole evitare che vi siano i ponti del 25 aprile e soprattutto del 1° maggio a fornire un pretesto per compromettere la situazione. Però il governo sta pensando anche di avere alcune attività di impresa che potranno riaprire già da fine aprile, non si capisce bene se il 24 o quando, alcune imprese della filiera, c'è appunto una commissione al lavoro sostanzialmente verrebbero classificati a basso rischio alcuni comparti: la fornitura di energia, il commercio all'ingrosso, le attività finanziarie assicurative, il trasporto e il magazzinaggio, e anche alcune filiere, le aziende collegate alle filiere essenziali alimentare, farmaceutica e sanitaria, ma anche l'agricoltura, sempre con la garanzia di riuscire a garantire i protocolli di sicurezza per i lavoratori. È chiaro che qui poi bisogna andare caso per caso, l'attività agricola consente spesso un distanziamento maggiore tra le persone, cosa molto più difficile nel commercio in questo momento. Ma al di là, diciamo, del, e infatti tutta la parte, diciamo, che riguarda il mondo del commercio, ma anche le scuole, dovrebbe aprire per ultima, se non aprire proprio, come nella maggior, è molto probabile per le scuole. Viene, ho visto, invece esclusa, poi vedremo quello che sarà il decreto, la possibilità di aprire scaglionato in base alle regioni, in base allo stato, diciamo, di contagio delle regioni. Però insomma, chiediamo che si evitino incomprensioni e finte e diversi testi tra quello che viene annunciato e quello che viene poi pubblicato in gazzetta ufficiale. Per quello che riguarda invece i mercati, devo dire che oggi sono tutti abbastanza positivi: più 1,1 Milano, più 0,70 Parigi, più 1,70 Francoforte, più 2,60 Londra, più 1,30 il Dow Jones. Bene, Fiat Chrysler più 4,90, Banca Mediolanum più 4,30, ST Microelectronics più 4, ERA più 3,30, Saipem più 2,90, Enel più 2,5, come ricordati e Prismian e Diasorin. Snam più 2,30, come A2A il 2% lo guadagna Atlantia. Invece il fronte opposto, Telecom Italia meno 2,11, Buzzi Unice meno 1,80 e ancora Tenaris meno 1,5, Fineco Bank meno 0,80%. È arrivata ora la notizia invece che c'è un'intesa dell'accordo OPEC Plus, adesso allargato anche la Russia. Praticamente vi sarebbe un accordo sostanzialmente tra Russia e Arabia Saudita per un taglio della produzione di 10 milioni di barili al giorno e immagino anche per questo motivo il petrolio negli ultimi minuti è risalito in maniera anche consistente. Adesso il WTI ha fatto il 10% più di rialzo e anche il Brent, il WTI è a $28 il barile, il Brent a $36,4 dollari al barile. Dunque, per bar e ristoranti si parla di aprire a settembre? No, non ho mai letto una cosa del genere. Sicuramente apriranno nella fase finale, cioè dopo il 2 maggio, 3 maggio per essere precisi, il 4 lunedì se non ricordo male, con tutto un insieme di precauzioni e di distanza da mantenere. Però ripeto, ne parleremo anche domani, c'è una bozza, ormai siamo abituati a maneggiare le bozze con cura, diciamo così, perché poi le modifiche ci sono, l'edilizia e i lavori stradali. Bisognerà capire che tipo di garanzie riescono a dare, anche questo era circolato, però non voglio creare false illusioni. Sicuramente per le prossime, fino a Pasqua non cambia nulla, ma anche immagino la settimana dopo Pasqua. Comunque 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Allora, sui prestiti, la lunghezza dei prestiti, sì, 6 anni, molte imprese, c'è intervista oggi anche del presidente di Assolombarda Bonomi, che dice ci aspettavamo prestiti più lunghi, 10, 15, anche 30 anni. È vero che i primi due sono scontati, però più che il prestito a 6 anni mi interessa capire in questo momento quanto fluida è la richiesta. Mi sta scrivendo un ascoltatore: siamo una SNC, abbiamo chiesto alla nostra banca informazioni per accedere al finanziamento e la banca ha risposto: sono necessari decreti attuativi per capire quali siano le caratteristiche. Finanziamento, sto leggendo assieme a voi, mi propongono a quel punto la loro proposta di finanziamento in liquidità, 18 mesi, di cui solo 6 interessi agevolati. Sì, il problema è appunto che mancano i decreti attuativi. Comunque ne parleremo con un esperto adesso nei prossimi minuti, per capire esattamente che cosa manchi o invece che cosa dobbiamo attenderci. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook, barbieri e parrucchieri quando riapriranno sono collegati al tema degli esercizi commerciali, bar e ristoranti, anche lì con distanza. Capisco il problema, insomma lo capisco in maniera anche abbastanza evidente, però fanno parte dell'ultimo blocco, glielo dico già per tutti quelli che tutte le bozze che abbiamo visto, l'ultimo blocco di apertura riguarderà appunto i luoghi dove bisognerà creare una distanza sociale che non è automatica, mettiamola così, più facile in molte fabbriche proprio per la presenza meno intensa, diciamo, di persone e nel mondo dell'agricoltura. Dicevo 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo subito con la notizia in breve. Lancia allarme anche il Fondo Monetario Internazionale, il direttore generale Kristalina Georgieva dice: attenzione, i paesi del mondo hanno preso misure di bilancio per circa 8.000 miliardi di dollari, è la peggiore crisi dal 1929, è il peggiore calo dalla Grande Depressione. La Cina oggi ha diffuso il dato sulle vendite di auto a marzo, meno 40%, anche se c'è un boom per la Tesla, ma insomma è poca cosa rispetto al valore complessivo. Invece negli Stati Uniti è arrivata un'altra mazzata sulle richieste di sussidi di disoccupazione, 6.600.000, gli analisti si tendevano 5.500.000. Io ricordo la progressione fino a gennaio e negli ultimi anni più o meno le domande di sussidi a settimana, perché sono settimanali come le paghe spesso negli Stati Uniti sono settimanali, erano intorno ai 200.000, 230.000, 220.000, 240.000, quella era la cifra. Tant'è che 4 settimane fa erano state di 282.000, 3 settimane fa solo 211.000 richieste di disoccupazione, 2 settimane fa, quando l'America scopre di non riuscire a reggere e va verso il lockdown, sono salite a 3.300.000 da 210.000. La settimana scorsa 6.648.000 e appunto 2 settimane fa, e la settimana scorsa 6.661.000. Questo per dire la progressione incredibile che hanno avuto le richieste di sussidi. Il record precedente apparteneva all'ottobre del 1982 con 695.000, cioè un decimo. Nemmeno nella recessione del 2008, che pure picchiò duro negli Stati Uniti, si raggiunse un livello simile. Vi furono nelle fasi più acute della crisi richieste per 650.000 sussidi di disoccupazione a settimana, qui abbiamo già raggiunto i 6 milioni. No, ma lo dico perché se gli Stati Uniti sono messi così, lo voglio spiegare anche ai geni olandesi e ai geni tedeschi, forse i numeri alla mano, qui stiamo parlando di 10 volte quello che è successo come disoccupazione negli Stati Uniti nel 2008, di 10 volte il peggior dato registrato da quando registrano i sussidi di disoccupazione, che era il 1982. Ma se uno mi vuole continuare a rispondere che bisogna reagire con strumenti classici, come ha detto ieri l'ineffabile ministro delle finanze tedesco, complimenti. La Fed ha annunciato, la Federal Reserve, la Banca Centrale Americana, nuove misure, nuovi programmi per 2.300 miliardi di sostegno all'economia. La Banca Centrale Europea ha definito la situazione senza precedenti, questo in alcune minute diffuse oggi. La Lagarde ha detto: non bisogna fissarsi sui corona bond, perfetto. In Europa per le cose ci vuole un po' più di tempo di quanto vorremmo, ma alla fine troviamo sempre una soluzione. Lei ha proposto altre soluzioni come la mutualizzazione della spesa nel quadro di un bilancio europeo specifico all'uscita della crisi, o la creazione di un fondo di ricostruzione mirato a una crescita più verde digitale. Vabbè. E ha detto: è impensabile cancellare i debiti. Ascoltiamo la Lagarde, era a France Info questa mattina. Il faut comprendre que cette crise sanitaire terrible. Bisogna capire che questa crisi causerà danni molto significativi a tutte le economie del mondo, compreso quelle della zona euro e della Francia. È una crisi senza precedenti. È un po' come un atleta che improvvisamente deve smettere di allenarsi e vede i suoi muscoli atrofizzarsi. L'intera missione consiste nel continuare a fare un po' di allenamento in modo che quando si ricomincia non siamo troppo deboli e siamo in grado di farlo. È una crisi molto brutale, temporanea, ma che infliggerà danni profondi alla nostra economia, soprattutto in alcune aree. Ci vorrà tempo per riprendersi. Ci è voluto molto tempo per risalire dopo la crisi del 2008, soprattutto perché è stata prolungata a causa della crisi del debito sovrano. Qui la velocità del rimbalzo dipenderà da due fattori, la durata e le misure che prendiamo per mantenere l'economia in uno stato di ripresa. E le misure sono quelle che stiamo attualmente adottando sia a livello di bilancio che a livello monetario. È totalmente impensabile una cancellazione globale dei debiti. Ora non è il momento di porre la questione. Ci stiamo concentrando sul mantenimento dell'economia e della ricostruzione. Successivamente, ci porremo la questione del rimborso del debito e di come gestire le finanze pubbliche nel modo più efficiente possibile. Dell'ammortissement della dette e della façon dont on gère les finances publiques de la maniera la più efficace possibile. Vedo così appunto Christine Lagarde, sta leggendo una notizia appena battuta, c'è un accordo tra il gruppo Fiat Chrysler e i sindacati per la ripartenza, tra le misure l'obbligo della mascherina e la rilevazione della temperatura, mantenimento della distanza di almeno un metro, sanificazione degli ambienti, procedure per evitare assembramenti nelle mense, negli spogliatoi, uso dello smart working, accordo che ha avuto anche l'approvazione del virologo Roberto Burioni. Lo dico perché mentre il dato di oggi sulla produzione industriale di febbraio lo prendiamo per quello che era, meno 2,4% rispetto a gennaio, però adesso arriveremo a quello di marzo e lì saranno dolori, però le Confindustrie del Nord ieri hanno chiesto pensare a un piano di riaperture scaglionato, perché anche oggi gli industriali del Piemonte dicono ripartiamo ci sono 150.000 posti di lavoro persi. Il ministro degli affari regionali Francesco Boccia oggi ha detto il governo ha le idee chiare, dobbiamo mettere in sicurezza prima la salute degli italiani e poi la parte economica. A questo proposito, prima di passare al DL Imprese, vorrei abbiamo dedicato anche dei servizi nei nostri GR. Vorrei parlare di Antonello Ieffi, segnatevi bene questo nome, ma non tanto, era finito le cronache anni fa, cronache rosa, una relazione con Manuel Arcuri, ma chi se ne frega, no, lui è nato a Cassino nel 1978, è il primo arrestato per i reati contro la pubblica amministrazione per l'emergenza di coronavirus. Che cosa si era inventato? Dopo una denuncia della Consib e l'investigazione della Guardia di Finanza, l'imprenditore aveva promesso di fornire 24 milioni di mascherine chirurgiche, il valore era 15 milioni di euro. Pur non avendo nessuna qualità e qualifica, aveva truccato tutte i dati e soprattutto aveva truccato quello che erano le informazioni su quanto produceva. Ve la faccio breve. Lui viene intercettato mentre dice: io importo da anni fotovoltaico dalla Cina, ho chiamato le ditte per dire avete le mascherine, voglio accaparrarmi una fetta di questa gara d'appalto. E la Consib si era accorta tra l'altro che c'erano varie anomalie in questa gara, tra l'altro poi lui si è scoperto essere anche avere dei contenziosi belli pesanti aperti con l'Agenzia delle Entrate. E insomma garantiva per una società di cui lui era stesso era parte con sede in Asia. Detto questo, non è arrivata nessuna mascherina, continuava a dire che aveva problemi con i fornitori, con i pagamenti, e poi si è scoperto che aveva anche 150.000 euro di debito nei confronti dell'erario. Ora, per carità, la giustizia farà il suo corso, ma io continuo a chiedere in questi casi se fosse possibile pensare di tramutare la pena invece che ai domiciliari, o quello che sarà, in lavori socialmente utili. Lavori socialmente utili io li individuerei molto bene per Antonello Ieffi, segnatevelo, Antonello Ieffi. Li vedrei molto bene ad Alzano Lombardo, anche a Bergamo, anche a Nembro, laddove si sviluppa un focolaio, cercando di fare non lavori per cui farebbe solo danni, perché ci sono i nostri eroi quotidiani, ma magari c'è qualche lavoro in cui può non fare danni, anche banalmente. Poi voglio dire, se c'è la mascherina per Ieffi, volentieri gliela diamo. Se non c'è, poteva pensarci lui, visto che voleva guadagnarci 15 milioni. Anzi, io gli direi: guardi, ci sarebbero le mascherine, ma siccome non sono arrivate le tue 24 milioni di mascherine, tu lavori ad Alzano, a Nembro, all'ospedale di Mego, senza mascherina. Mi dispiace, vedrai che la prossima volta ti passa la voglia di lucrare sulla morte, lucrare sulla tragedia. Antonello Ieffi. Sì, adesso non è che per questo uno mi deve scrivere dopo, non lamentiamoci se i giornali tedeschi arrivano, questo è il primo che becchiamo, su non usiamo sempre le scuse. Antonello Ieffi, bisogna che, oppure magari esiste la possibilità di testare per la prima volta il virus con le conseguenze che vi possono essere. Appunto, testiamolo su Ieffi l'antivirus, no? Visto che le mascherine non sono arrivate, così da furfante diventerà un eroe, almeno muterà la sua poco invidiabile carriera. Antonello Ieffi, chi lo conosce se lo ricordi. Tanto ormai bisogna arrivare a questo, no? Chi ha foto con lui, le cancelli dai profili, fidatevi. Sì, nelle case di cura, avete ragione, anche nelle case di cura. Così però è giustizialismo. E invece chi viene beccato a fregare 25 milioni di mascherine chiedendo 15 milioni di euro in questo momento, quello com'è? No, va bene, dai. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Torniamo sul DL Imprese pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, quello, il decreto che contiene le garanzie statali a credito delle imprese, e oltre che il rinvio di alcune scadenze fiscali e altre cose, per esempio la Golden Power. Però oggi voglio occuparmi solo delle procedure per il credito alle imprese. Allora, poi verremo al problema delle partite IVA dei 600 euro, sono due cose diverse. Uno è il fondo per partite IVA autonomi, dove quando si è letto quello che ho pubblicato in Gazzetta sono cambiate un po' le cose. Qui invece parliamo della liquidità, liquidità per 750 miliardi, garanzie, o meglio, prestiti senza garanzia fino a 25.000 euro per le piccole e medie imprese sotto i 500 dipendenti, e quindi garantiti al 100% senza controlli preventivi. Poi per i prestiti fino a 800.000 euro ci sarà sempre la copertura al 100%, con il 90% garantito dallo Stato e la controgaranzia del 10% dei confidi, tenuto conto della situazione finanziaria pre-crisi e non dell'andamento degli ultimi mesi. Quindi il riferimento è al 31 dicembre del 2019. Per le richieste di liquidità fino a 5 milioni invece la garanzia sarà al 90%, sempre senza una valutazione dell'andamento in questi mesi. Anche lì potrà entrare i confidi per la parte. Poi sopra i 500 dipendenti interviene invece la SACE. SACE che oggi ha fatto sapere che i principali paletti di accesso al credito, ma in generale vale per tutto il decreto, però occorre che non vi siano né dividendi e né riacquisto di azioni proprie per un anno, nonché l'obbligo di destinare il finanziamento per i costi del personale e per gli investimenti di attività localizzate in Italia. E la parte occupazionale invece vede l'impresa che beneficia del credito attraverso la garanzia dello Stato deve assumersi l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali, quindi si vedrà. però è importante, è la norma alla francese: se distribuisci dividendo non puoi chiedere soldi con la garanzia statale, neanche se fai riacquisto di azioni proprie. Mi sembra più che corretta. La SACE, dicevo, resta all'interno del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ma cambia la propria governance diventando più autonoma e non è soggetta più per l'attività di sostegno alle imprese, all'attività di direzione e coordinamento della Cassa Depositi e Prestiti. La SACE si prepara ad attivare Garanzia Italia, che è un nuovo strumento straordinario per sostenere le imprese italiane. Sono già in fase avanzata i lavori con la task force dell'ABI, così come i tavoli con i principali istituti bancari. Per informazioni si può anche chiamare un numero verde che do volentieri: 800 20 030. Presidente Gaetano Stio, presidente del gruppo NSA, che è la più grande società italiana per fatturato di intermediazione creditizia. Buonasera. Buonasera. Allora, mi dia un suo giudizio prima del meteo e della pausa pubblicitaria sul decreto in sé, soprattutto per la parte che riguarda le piccole e medie imprese, pubblicato oggi in Gazzetta. Poi veniamo invece agli elementi più di consiglio che lei può dare agli imprenditori in ascolto. Un giudizio complessivo. Ok, ma secondo me, guardi, il governo ha fatto veramente un ottimo lavoro sia col Cura Italia prima, quello del 17 marzo, che adesso col decreto liquidità. In realtà ha semplificato l'accesso, come lei diceva prima, togliendo l'andamentale e quindi facilitando appunto l'accesso alla garanzia dello Stato. L'ha incrementata, quindi la porterà fino al 90%, adesso si sta attendendo l'autorizzazione della UE per il 90%, però insomma ce l'hanno già i francesi e i tedeschi, quindi dovrebbe arrivare anche per noi. Ha portato il limite massimo a 5 milioni, era a 2 milioni e mezzo, nel Cura Italia era sceso a 1 milione e mezzo per avere la garanzia sempre all'80%, ha reso accessibile il fondo anche alle mid-cap, che non sono tantissime in Italia, che sono le aziende tra 250 e 499 dipendenti su circa 3.000, rende possibile avere la garanzia anche alle imprese che sono in stato di inadempimento probabile, scadute, sconfinate, deteriorate, quindi insomma stanno aprendo quanto più possibile. Hanno semplificato anche la richiesta di certificazione antimafia, che per il fondo di garanzia era uno degli ostacoli maggiori. Hanno abolito anticipatamente la lettera R, che anche quello era un limite in alcune regioni, tipo Friuli, Toscana, Marche, Abruzzo, dove c'erano dei limiti di operatività per le banche con la garanzia diretta. E poi, come diceva lei prima, hanno fatto anche i finanziamenti con garanzia 100% per i piccoli operatori economici a condizioni calmierate. Ci sono alcuni step da rispettare per averlo. Allora, quindi lei mi sta dicendo l'impianto è corretto, cioè è stata... Io però vedo molti imprenditori che sono preoccupati per i tempi, no? Adesso, il decreto è legge perché è stato pubblicato, certo. Però per i tempi, da un lato il rapporto tra il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e la banca, perché mi scrivono alcuni ascoltatori: guardi che sono andato in banca e le banche mi hanno risposto, stiamo aspettando i decreti attuativi. Questo è un paese che ci ha abituato a fermarsi quando devono arrivare i decreti attuativi. Le chiedo la risposta però dopo il meteo. E l'altra cosa riguarda il tempo. La Confindustria oggi ha detto, ripeto, l'Asso Lombarda: ci aspettavamo una restituzione in tempi più lunghi. 6 anni sono oggettivamente, è vero che c'è una moratoria per 2 anni, ma insomma 6 anni sono pochi. Immaginavamo qualcosa di carattere decennale. Dopo il meteo, risposta 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Allora, Presidente Stio, la prima obiezione è la durata. 6 anni sono un po' pochi. È ovvio che questa è una valutazione da parte di Confindustria, che può essere anche corretta, però come diceva lei prima c'è il periodo di preammortamento, il periodo di grazia, cioè in cui le aziende restituiscono solo la quota interessi. Solo per capirci, tanto non è un calcolo molto complesso, se noi chiediamo 100.000 euro a una banca e la banca ci fa il 3% di interesse, durante il primo anno, se abbiamo un preammortamento di 12 mesi, paghiamo solamente il 3% di 100.000 euro, cioè 3.000 euro che sono 250 sì, no, euro. Ecco, 3% è una cifra che lei cita così perché abbiamo visto che il decreto stabiliva tra lo 0,2 e lo 0,3% il tasso di interesse, se ben ricordo. Ecco, allora per quella parte lì lo stabilisce però solo sui prestiti fino a 25.000 euro. Ci sono una serie di calcoli da fare perché sono legati al rendistato, mi pare, ad altri parametri. Io me li sono ricalcolati abbastanza rapidamente perché l'ho letto anch'io tra ieri sera e stamattina. Diciamo che stanno tra l'1,5% e l'1,7%, poi bisogna evidentemente vedere l'andamento dei rendistato e di tutta una serie di altri parametri che insomma poi alla fine le banche lo calcolano correttamente. Però diciamo per il resto, essendo anche il fondo di garanzia uno strumento che funziona molto bene da tanto tempo, deve considerare che l'anno scorso sono state fatte circa 120.000 domande e la media del finanziamento erogato era sotto i 200.000 euro, quindi diciamo che stiamo parlando di micro piccole imprese che sono quelle maggiormente beneficiarie di questo tipo di agevolazione. Ecco, il rapporto col fondo di garanzia, perché cioè la documentazione che deve essere chiesta è quello che rispondono le banche ad alcuni nostri ascoltatori: stiamo aspettando i decreti attuativi, corrisponde al vero? Allora, con il decreto Cura Italia, quello del 17 marzo, una parte della disponibilità, diciamo, delle nuove misure è già operativa perché l'ente gestore del fondo di garanzia, che è Mediocredito Centrale, ha già adeguato i sistemi informatici e quindi è già disponibile alla presentazione della domanda. Su altre cose, quelle che sono uscite in questi giorni, bisognerà aspettare le disposizioni operative, ma con il decreto Cura Italia nel giro di una settimana hanno fatto tutto, quindi Non è una cosa dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Allora, ancora debiti, meglio chiudere tutto. Guardate, non era pensabile avere, allora io ho detto che poi nella fase 3, rispondo ad alcuni ascoltatori, quella in cui si andrà a vedere, io la chiamo 3, chiamatela come volete, andrà a vedere chi come fatturati ha recuperato, magari non dico tutto, ma ha recuperato, penso a magari beni durevoli e non solo, e chi invece ancora deve essere aiutato, e chi non riuscirà a recuperare perché non basteranno i prestiti, ma ripeto, io temo che molte attività del commercio nella fase, nel settore turistico, alberghiero, ristorazione, avranno difficoltà anche per i mesi a seguire, anche quando sarà finito il contenimento, lì secondo me occorrerà dare oggettivamente delle risorse quasi a fondo perduto, perché quei fatturati non li rivedrai più, o come credito di imposta, o come sconti, non so. Adesso stiamo parlando ancora della fase, diciamo, ponte, tampone, e quindi quella per mantenere i soldi nelle tasche degli italiani, quindi senza fargli spendere mutuo piuttosto che scadenze fiscali, e dare dei prestiti ponte nell'attesa che uno riapra e torni a fatturare. L'altra domanda che invece riguarda la documentazione necessaria è diversa a seconda del prestito che chiede la banca, che io chiedo, e molti mi stanno scrivendo: ma la banca è obbligata a concedermi questo prestito? Allora no, non è obbligata. Diciamo che bisogna ricordare a chi ci ascolta che innanzitutto per avere la garanzia del fondo le imprese non possono fare domanda direttamente, la domanda la deve fare o un intermediario abilitato oppure una banca o un Confidi. Quindi l'impresa è il soggetto beneficiario dell'agevolazione, quindi della garanzia, mentre è la banca o l'intermediario o il Confidi il soggetto richiedente. Quindi la documentazione che va presentata è quella che va presentata per un prestito normalissimo, non ci sono cose particolarmente difficoltose da fare. Volevo aggiungere però anche che noi in questi giorni stiamo presentando domande ovviamente sia per i nostri clienti, e abbiamo visto che i tempi di risposta sono brevissimi. Noi abbiamo avuto risposte in 4 giorni, quindi insomma già devo dire che il fondo di garanzia e il Mediocredito Centrale erano molto molto efficienti già prima, rispondendo in una settimana. Adesso stanno rispondendo ancora più rapidamente. No, ma mi fa piacere che lei ci dia questa testimonianza, perché sa, io poi ho uno spettro limitato in base a quello che scrivono gli ascoltatori. Prego. Volevo aggiungere una cosa importante sulle durate. Siccome lei prima citava i settori, soprattutto quello alberghiero e del commercio ricettivo, esatto, in particolar modo questo, perché c'è proprio un articolo specifico per il settore immobiliare e alberghiero, dove le durate in realtà sono minimo 10 anni e minimo 500.000 euro. Quindi lì chiaramente lo Stato ha fatto un maggiore sforzo. No, ha fatto bene a dirci, perché questo c'era sfuggito. Quindi in alcuni settori, quello alberghiero, ricettivo, così, la durata è più lunga rispetto ad altri. E anche quello immobiliare delle costruzioni. E anche quello immobiliare delle costruzioni. E minimo 500.000 euro, capito bene? Esattamente. Senta, da questo punto di vista invece molti mi stanno chiedendo, poi termino anche l'intervista, che posizione pregressa devo avere? Ossia, sappiamo che la banca non potrà andare a guardare la parte andamentale, cioè come ti sei mosso negli ultimi mesi, farà testo il 31 dicembre, però potrà vedere se io invece sono già in sofferenza, o meglio, se avevo già incagli o crediti che stavano diventando inesigibili, ho capito bene? Sì, allora, dunque, quella parte, allora innanzitutto per avere la garanzia del fondo oggi praticamente non c'è nessun tipo di valutazione. Chi inserisce la domanda, cioè la banca, il consiglio, l'operatore specializzato, autorizzato, si basa su dei ratio, cioè dei dati che ci sono nei bilanci 2017-2018, quindi molto prima che iniziasse la crisi, quindi le aziende possono stare tranquille. Per quanto riguarda quello che diceva lei, cioè nel decreto è specificato che possono rientrare le imprese che sono in stato di inadempimento probabile, scadute o sconfinato, deteriorate, però che questi accadimenti siano successivi al 31 gennaio, cioè dobbiamo ricordare a chi ci ascolta che il decreto è fatto per i danni da Covid, non per i danni che hai fatto prima da solo. Okay? Mi permetta solo una cosa importante che vorrei dire a chi ci ascolta. In questo momento quello che va, l'impresa deve, diciamo, a cui deve dare precedenza, non è tanto il tasso del 2%, del 3%, del 3,5%, del 3,75%, ma è innanzitutto il periodo di preammortamento, perché più lungo è e più le rate sono piccole, ok? Quello che dicevamo prima. Sì. E la seconda cosa è la rapidità. Ok? Mm-hmm. Quindi se lei, scusi, io mi sono fatto un calcolo velocemente mentre lei parlava prima, ma se lei pensa a un finanziamento da 100.000 euro a 60 mesi, 72 mesi, io ho fatto il calcolo a 60 mesi, tra un tasso del 2 e un tasso del 3%, la rata cambia di 44 euro al mese, che sono poco più di un caffè al giorno. Mm-hmm. Quindi lei dice la cosa più importante è la velocità nell'accesso, più che la rata. Ma anche il preammortamento, anche il periodo di grazia, è importantissimo in questo momento, perché se tu hai una rata da 300 euro, dico, qual è l'imprenditore che non ha in tasca propria, magari l'azienda è in difficoltà, ma chi è che non ha in tasca 300 euro per pagare una rata? Ecco, mi dica l'ultima cosa però, perché molti mi stanno scrivendo dalla Germania. Allora, se lei dovesse dare un suggerimento al governo, ma insomma qualcosa di più facile, una semplificazione ulteriore, non si può trovare o no? Ma guardi, secondo me, noi abbiamo fatto tantissime domande al fondo di garanzia e secondo me a oggi è l'agevolazione più efficiente in assoluto. Purtroppo i tempi sono tempi un po' particolari, perché se lei, anch'io ho degli amici che fanno gli imprenditori e mi hanno detto, ma sai, sono andato in banca, nemmeno mi rispondono. E non ti rispondono perché alcune filiali sono chiuse, altre filiali lavorano con personale magari dimezzato. E poi le sedi centrali delle banche, che normalmente gestiscono le domande di accesso al fondo di garanzia, non vengono gestite in filiale, ovviamente anche quelle hanno i problemi che hanno le altre aziende, con persone malate, con persone a casa. Quindi purtroppo questo è un momento difficile per tutti, non solamente per gli imprenditori. Quindi alle volte la banca non è che non risponde per cattiva volontà o perché non è aggiornata, ma semplicemente perché ha delle difficoltà organizzative importanti. Chiaro, devo dire a chi mi chiede, ma io sì, ho diversi conti correnti, non l'abbiamo già spiegato quando è uscito il decreto con Gianni Trovati, è l'importo complessivo quello che fa fede, non quanti conti correnti. Allora, grazie anche al presidente del gruppo NSA, Gaetano Stio. Vedo adesso una notizia che arriva dagli Stati Uniti, molto interessante, anche se qui parliamo più delle primarie, anzi delle elezioni americane, perché c'è il primo sondaggio da quando Sanders, insomma, ha rinunciato alla corsa. Allora, Joe Biden sarebbe avanti di 11 punti su Trump, 53% delle preferenze contro il 42%. Pensate che la situazione era completamente opposta prima dello scoppio della pandemia, e molti osservatori, poi vedremo cosa succederà, ritengono che possa essere l'unico elemento ad azzoppare quella che sembrava una corsa in discesa di Trump, sia per le domande, avete visto, sono aumentate di 20 volte in 2 settimane le domande di disoccupazione, sia per la gestione, ma anche la gestione iniziale di Trump, molto tesa a minimizzare l'intera portata dell'epidemia. Grazie di nuovo al presidente del gruppo NSA Gaetano Stio. Andiamo sul traffico. Focus Economia. Giustamente qualcuno mi fa notare che anche la Clinton era data in vantaggio, ma figuratevi, infatti ho usato la massima prudenza su questo. E poi è ancora lunga la partita in America, e soprattutto è ancora lunghissima e tutta inserita la partita negli Stati Uniti alla lotta al coronavirus. Gli Stati Uniti hanno avuto per 2 giorni di fila il record mondiale di morti in 24 ore, 2000 morti sia nella notte scorsa, cioè nelle ultime 24 ore, che nelle ultime 48 ore. Ogni giorno sono arrivati 2000 morti. Quindi, vedremo che cosa succederà. La Francia invece aumenta il piano di aiuti, il piano di emergenza passa a 100 miliardi contro i 45 annunciati inizialmente, l'ho detto oggi il ministro dell'economia francese Le Maire poco fa, perché viene previsto un PIL del meno 6% nel secondo trimestre e il deficit al 7,6% del PIL, con un debito che dovrebbe passare al 112% del PIL a fine del 2020. Cerchiamo di capire invece cosa sta succedendo sui 600 euro, perché mi sembra che sia scoppiato un po' un casino, scusatemi il termine poco francese. Davide Colombo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, mi spieghi che cosa vuol dire il fatto che adesso, con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, si è scoperto che l'indennità dei 600 euro spetta agli iscritti in via esclusiva alle casse private, non titolari di trattamento pensionistico. E ci spieghi perché questa novità rischia di bloccare i pagamenti di alcune delle domande di accesso al sussidio? Allora, la prima notizia non rischia, ma blocca pagamenti che partivano domani mattina per almeno 25.000 iscritti all'ENPAM, oltre 25.000 iscritti alla Cassa dei commercialisti. È veramente un caso incredibile. Si è introdotto un diritto soggettivo a questo bonus di 80 euro con il decreto numero 18 di 3 settimane fa, e questo diritto soggettivo è stato inficiato sostanzialmente con l'articolo 34 del decreto che è andato in gazzetta stanotte. Cioè, praticamente noi in questo momento abbiamo in Parlamento 2 decreti, il primo in fase di conversione che prevede il diritto al bonus di 600 euro per i professionisti iscritti non in via esclusiva alle casse privatizzate. Ora si introduce la norma dell'esclusività, per esempio un avvocato che ha avuto dei contratti di dipendenza di una qualche azienda o di una amministrazione, fammi capire. Quindi è la doppia posizione. Io sono una partita IVA, un avvocato, un professionista, quello che vuoi. Ho avuto nel passato anche, ho versato anche per altre casse oltre alla mia, ho capito bene? Oppure ho versato in gestione separata a INPS perché ho avuto un contratto temporaneo. Sì. Quindi non sono esclusivamente iscritto alla mia cassa professionale di riferimento. Ecco che solo per questo caso, no, il bonus non posso più ottenerlo, perché nelle domande che sono state fatte non si parlava di esclusiva, adesso si parla di esclusiva. Ma perché è emersa sta norma? Nel senso che io ho capito quello che mi dici tu, vale per l'avvocato, ma vale per qualunque libero professionista, partita IVA, magari tu un medico. Tu nella vita puoi aver avuto diversi contratti nella vita professionale, magari aver pagato alcuni contributi all'EMPAS, dico per dire quello che mi viene in mente, e poi invece avere la tua cassa anni dopo. Perché è partita sta norma? Questa è una domanda veramente difficile da rispondere, perché la ratio non c'è. Cioè, questa norma introduce 2 paletti, quello dell'esclusiva da una parte e quello dei percettori di una pensione indiretta, per esempio i superstiti, che prima non c'era. Io sono un avvocato, però ho anche una pensione perché mio marito, mia moglie, il mio coniuge è morto, non posso avere i 600 euro. Non posso più avere. E tieni conto che questi 600 euro erano stati introdotti come un nuovo diritto soggettivo pieno. Certo. su cui potevo contare semplicemente 2 settimane fa. Allora lo dico a chi mi scrive, non è il tema se gli avvocati hanno bisogno di 600 euro o no, a parte il fatto che gli avvocati non sono tutti miliardari, ci sono purtroppo brutta pratica presente in molti studi italiani, tanti avvocati giovani che vengono messi a contratto anche se fanno lavoro dipendente, e non parlo solo di avvocati, con partita IVA e guadagnano poco, okay? Per cui non è vero, ma poi il problema è che se tu stai dando a e hai garantito i 600 euro, perché cavolo devi iniziare con le... Ma si è capito com'è entrata sta norma? C'è la manina che l'ha messa? Allora, la classica manina, questo qui è un caso scolastico, nel senso che io ho sentito poco fa fonti ministeriali, il Ministero del Lavoro, che sono piuttosto spiazzati da questa norma, cercano di capire in queste ore se con il MEF si può fare una nota interpretativa per dire alle casse di non procedere alla richiesta di una ricompilazione della domanda. Sono state fatte 552.000 domande nelle ultime 2 settimane e mezzo sostanzialmente per questo bonus alle casse. Stiamo parlando di iscritti che non arrivano a 50.000 euro di fatturato denunciato nell'anno appena trascorso, quindi con fatturazione elettronica. Quindi diciamo che non stiamo parlando di miliardari, dai. Non stiamo parlando di persone, esatto. A questo punto l'unica possibilità è cancellare questo articolo 34 del decreto che è stato pubblicato questa notte in Gazzetta, visto che appunto inficia un diritto soggettivo che sta nel decreto 18 che è all'esame del Senato. Ma tra l'altro sono arrivate oltre 5 milioni di domande, se ho ben visto, davamo i dati ieri complessivamente per questi 600 euro, di cui tu ci stai ricordando. Quello a cui fa riferimento sono le domande all'INPS, 3,6 milioni all'INPS, circa, certo. E queste sono 552.000 alle casse privatizzate. Alle casse privatizzate, un fondo di ultimo rifinanziamento, c'è un fondo di ultima istanza che mette a disposizione 200 milioni, dovrebbe coprire il 60% della platea potenziale di questi iscritti, appunto non tutti i professionisti sono miliardari o hanno grandi studi legali, ci sono anche giovani che iniziano la carriera di odontoiatra piuttosto che di infermiere, piuttosto che di avvocato, come dicevi tu prima, tante partite IVA, si tratta di una platea importante, più di 1,5 milioni di persone aveva fatto domanda, queste domande sono bloccate dalla notte scorsa, è abbastanza incredibile. Allora io faccio un appello al governo, adesso so che c'è un incontro con le parti sociali, sbloccate sta cosa vergognosa, poi ogni ministro si prende le sue responsabilità. Secondo te la partita, cioè la responsabilità come Dicastero, a chi va in questo caso? Non dico che sia colpa sua, dico però insomma che ogni volta abbiamo la ratio, dal mio punto di vista la ratio di questo paletto è una ratio Ministero dell'Economia per cercare di tamponare un tetto di spesa che in questo momento è 200 milioni che andrà rifinanziato decreto di aprile, però punto di domanda, ecco. Lì c'è il direttore generale Ranieri? Il direttore del tesoro. Del tesoro. No, perché abbiamo letto in questi giorni di scontri anche tra Ranieri e Gualtieri. A me non me ne frega nulla, non so neanche se sono veri. A me basta che anche il direttore generale del tesoro capisca la situazione in cui siamo, no? E glielo faccia capire il suo ministro di riferimento. E Gualtieri, gli abbiamo detto: mi raccomando, Gualtieri, tenere botta, tirare fuori quella cosa importante che serve, senza essere volgari. Dimenticarsi di Bruxelles, degli anni passati a Bruxelles, ricordarsi dell'Italia e evitare di fare ste cavolate, visto che adesso invece parleremo delle cavolate degli altri. Speriamo che arrivi una nota integrativa e esplicativa da parte del Ministero il prima possibile. Grazie anche a Davide Colombo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo sul GR24 e poi avremo anche l'aggiornamento della Protezione Civile. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Alessandria ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'azienda ospedaliera nazionale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per fronteggiare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Hashtag insieme ce la faremo, hashtag sole per ospedale Alessandria. Per tutte le info s24ore.it/aiutiamo. Radio 24 è sempre con te. Ci siamo sempre stati e in questo periodo difficile continuiamo ad esserci, anzi ancora di più. Resta a casa. Noi pensiamo ad informarti con i nostri GR, ad intrattenerti con i programmi in diretta anche in video. Con contenuti speciali creati apposta per te, che puoi ascoltare da casa tua quando vuoi. Scarica la nostra app o vai su radio24.it e scopri tutti gli approfondimenti, gli speciali, le dirette e i podcast esclusivi, sempre disponibili sulla nostra homepage e su tutte le principali piattaforme. Resta a casa con Radio 24. Noi ci siamo sempre. Radio 24. La passione. Si sente. Si sente. L'Italia come non l'abbiamo mai vista cambia noi e le nostre priorità. Code ai supermercati, film in streaming, tante torte, lavori in casa. Per chi lavora, tenere duro. L'economia delle piccole cose cambia, ma non vi lascia soli. Sono Anna Migliorati, vi aspetto ogni sabato mattina alle 7:15 su Radio 24. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo molti messaggi, guardate, io spero che intervenga subito il Ministero dell'Economia e Finanze. Ho detto semplicemente, non so se la Manina, non ho mai detto che la Manina sia né del direttore generale del Tesoro Ranieri né men che meno del ministro Gualtieri. Ho detto, mi siccome abbiamo letto tutti di tensioni anche col Premier Conte in questi giorni per una certa resistenza del Ministero dell'Economia e Finanze, adesso arriveremo invece all'Eurogruppo per cercare di capire che cosa sia successo. Non ho visto ancora nessuna notizia definitiva, se non adesso, eccola qua, siamo molto vicini ad un accordo, ha detto poco fa il vicepresidente dell'Eurogruppo Mario Centeno prima dell'avvio della riunione, che slitta di un'altra ora, doveva essere alle 17, poi alle 18, adesso va alle 19. Confido che questa volta saremo tutti all'altezza, confido, in realtà è una traduzione, vorrebbe dire ho fiducia, che questa volta saremo tutti all'altezza della situazione e dimostreremo il necessario spirito di compromesso che è la base della nostra unione. Vabbè, vediamo, perché quando io poi leggo Angela Merkel sia la solidarietà, ma no agli euro bond o ai corona bond, non capisco poi cosa voglia dire al di là della cosiddetta supercazzola. Per quello che riguarda i mercati, adesso sta per iniziare a breve la conferenza stampa della Protezione Civile. Per quello che riguarda i mercati, la chiusura è stata abbastanza in rialzo, più 1,40% Milano, più 1,40% Parigi, più 2,20% Francoforte, più 2,90% Londra. In questo momento il Dow Jones guadagna l'1,90%, bene Fiat Chrysler per quello che riguarda i singoli titoli, più 5%, la lettera di Elkann ieri agli azionisti in cui si conferma la fusione con PSA e poi anche l'accordo che ricordavamo prima sulla riapertura, accordo con i sindacati. Dicevo poi ERA più 4,70, Steam Microelectronics più 4,5 come banca Mediolanum, un Diassori in più 3 come Atlantia, 2,80 ricordati e Banco BPM Prismian, il 2,70 Snam ed Enel, il 2,5% rialzo di Saipem e A2A, il 2,40% di Italgas e di UbiBanca, il 2% lo guadagna Ferragamo. Invece chi perde? Il 2,30% Telecom, l'1,20% Buzzi, l'1% è il calo di Unipol, lo 0,70% è quello di Tenaris, lo 0,40% è quello di Ferrari come calo e poi Mediobanca meno 0,43%. Euro su dollaro quota 1,09. Dicevo le domande, qualcuno mi sta, guardate che un conto sono le domande come ha chiarito bene Davide Colombo arrivate all'INPS e sono a ieri erano 4.100.000 per 7.900.000 prestazioni, di queste domande 3.650.000 riguardavano la richiesta per indennità di 600 euro, Le altre riguardavano la cassa integrazione, però con 168.000 domande per 2.560.000 beneficiari. Ma queste non sono messe in discussione, anche perché il bonus 600 euro di marzo vale per, non solo per i lavoratori autonomi, i professionisti, per IVA, ma anche gli stagionali, settore agricolo, turismo, stabilimenti termali, spettacolo. Altra cosa sono le 500.000 domande che molti stavano per erogare già, enti casse previdenziali stavano per erogare già da domani, che si sono bloccate per questa cavolo di norma prevista, articolo 34 se non ricordo male, arrivata a sorpresa con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Cura Italia, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Cura Imprese. Ecco perché dice giustamente Davide Colombo, a questo punto abbiamo due cavolo di decreti, uno è Cura Italia che deve essere trasformato in legge, che non prevede alcuna restrizione, poi dentro il decreto Imprese, il decreto Liquidità, come l'abbiamo chiamato, è apparsa sta norma. Io mi chiedo qualcuno dovrà pagarne e soprattutto risponderne a livello di Ministero Economia e Finanze. Non è possibile fare sti giochetti magari per salvare un po' di cassa, non è così che si va avanti. Allora, andiamo in attesa di capire che cosa succederà all'Eurogruppo, che però continua a slittare. Cerchiamo di capire il perché di una resistenza fortissima in Olanda e in Germania, ma al di là dell'Olanda, che continua a dire il Premier Rutte, Mark Rutte, ha detto siamo solidari ma contrari alle emissioni di debito comune. Senta Rutte, a me se uno mi dice sono solidari con te, però non voglio condividere nulla con te, mi spiega che solidarietà è? È una solidarietà ipocrita, forse avete un'idea strana in Olanda di solidarietà. E il Parlamento ha approvato due mozioni contro l'Eurobond. Lo stesso ex presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha detto in un'intervista al quotidiano francese Libération, ha detto l'Olanda è irresponsabile sul MES e sugli Eurobond. Angela Merkel nel frattempo ha ribadito la sua contrarietà all'opzione di un debito non da far pagare agli olandesi e ai tedeschi, continuo a spiegarla questa cosa, semplicemente la garanzia è dell'area euro, poi ognuno rimborserà la quota di debito che ha fatto, quindi di obbligazioni che avesse dovuto utilizzare per la ricostruzione, per gli investimenti sanitari. La garanzia invece che essere dello Stato che ne fa ricorso è una garanzia a livello europeo, quindi permette tassi più bassi, evita speculazioni contro il singolo paese, e sì, magari saranno tassi un pochino più alti per i tedeschi e un pochino più bassi per gli italiani di quello che avrebbero avuto. Però faccio notare che la Germania ha beneficiato, quando c'è stato l'euro, di un euro più debole del marco, mentre per noi era un po' più forte della lira. Quindi faccio notare che la Germania continua ad avere un avanzo di bilancio che non sarebbe consentito, e udite udite, anche l'Olanda, la virtuosa Olanda, tranne quando si tratta di diventare paradiso fiscale dentro l'Unione Europea e aiutare le imprese di tutta Europa a eludere il fisco dei singoli paesi, la virtuosa Olanda è al 10% quando nella bilancio di pagamenti, quando nell'avanzo dello Stato, quando la Commissione Europea e i trattati di Maastricht prevedono che un paese non possa andare oltre il 6%. Quindi non puoi, diciamo, fare troppa cassa, per dirla male, ma farmi capire, devi anche spendere qualcosa. Ebbene, l'Olanda è esattamente nella scia della Germania. Però vorrei capire esattamente quale sia anche non solo la posizione dei politici. Abbiamo visto che in Olanda c'è anche una lotta tra il ministro dell'economia e il premier Rutte, c'è chi dice che il ministro dell'economia voglia scalzare in questo modo il premier olandese, ma c'è proprio una posizione che sta emergendo, a mio avviso anche quasi come tratto culturale. Ecco perché ringrazio intanto per averci raggiunto in collegamento, poi dovrò interromperlo appena vi sarà la conferenza stampa, poi lo riprenderemo, della Protezione Civile, il professor Alberto Crali, che è responsabile di laurea, del corso di laurea italo-tedesco alla Facoltà di Scienze Politiche all'Università Cattolica di Milano, autore di un libro di cui abbiamo parlato già altre volte sulla Germania, che si chiama Primi della classe. Professore, buonasera. Buonasera. Allora, al di là della variabile economica, adesso poi vedremo cosa succede all'Eurogruppo, qui sta emergendo proprio una spaccatura culturale che sì, si era vista nel 2011-2012 con l'atteggiamento tedesco sulla Grecia, e il punitivo e mortificante più che solo, diciamo, di reprimenda. Però poi tutto era stato assopito dall'intervento di Mario Draghi, e quindi, che aveva eliminato ogni attacco speculativo all'euro e fatto ritracciare i tedeschi, anche in parte gli olandesi. Uno poteva immaginare che dopo quell'esperienza avessero compreso che non conviene portare al fallimento uno Stato. E invece oggi, se vediamo che Der Spiegel definisce il rifiuto di Berlino come gretto e meschino, lo scrive il suo redattore capo, fare il guardiano delle virtù finanziarie in una situazione del genere è gretto e meschino. Invece il quotidiano Die Welt dice: la mafia sta aspettando i soldi europei, i soldi anche dei tedeschi, per utilizzarli. Di Maio ha detto: noi non chiediamo altri di pagare i nostri debiti, e ha criticato chiaramente, ha chiesto che il governo tedesco si dissoci dai vergognosi toni del Die Welt. Noi non vogliamo che gli altri paesi paghino i nostri debiti. L'Italia ha sempre pagato i propri debiti. Noi vogliamo solo creare le condizioni di mercato affinché si possano spendere tutti i soldi che servono in infrastrutture, quindi in lavoro, in innovazione tecnologica. Il primo valore che secondo me stiamo scoprendo molto di più è quello della vita. Mettere la vita al centro di ogni azione dello Stato significa che sulla sanità dobbiamo investire di più, dobbiamo pagare di più i medici e gli infermieri, dobbiamo investire di più nella qualità della vita dei nostri concittadini, che non sempre questo concetto va d'accordo con il business frenato e con la spending review o i tagli indiscriminati alla spesa pubblica. Io so benissimo e sappiamo benissimo che l'Italia in questo momento è impegnata in una trattativa a livello europeo, e quindi non vogliamo fare polemica. Però che un quotidiano straniero dica che la mafia sta aspettando i soldi che l'Italia sta chiedendo a Bruxelles è un'affermazione vergognosa e inaccettabile. Io spero che il governo tedesco prenda le distanze da quelle considerazioni su questo quotidiano tedesco, che è tra i principali quotidiani in Germania, e inoltre mi permetta di dire che noi in questo momento stiamo piangendo le vittime del coronavirus, ma allo stesso tempo l'Italia ha pianto e piange le vittime della mafia. Non voglio fare polemiche, però mi aspetto una presa di distanze, perché è inaccettabile che in un momento nel quale l'Italia sta chiedendo di poter spendere tutti i soldi che servono per aiutare i propri concittadini, i propri imprenditori, i propri lavoratori, i propri disoccupati, i giovani e meno giovani, si facciano considerazioni del genere. Allora, Crali, la domanda è molto semplice: perché tanti stereotipi, tanto astio? Abbiamo visto anche la pagina che voleva essere di gratitudine, piena di ci avete fatto scoprire le coste, la pizza, mamma mia. Vedo che la Confindustria tedesca è molto preoccupata, e anche la Federmeccanica tedesca ha detto: attenzione, non possiamo permetterci, l'80% delle imprese teme un calo della domanda italiana, e teme soprattutto che le imprese italiane non possono fornire la componentistica. Ha detto la Confindustria tedesca: ci servono le imprese italiane per ripartire anche in Germania, siamo strettamente collegati, dipendiamo reciprocamente da fornitori e partner. E allora? Allora, dunque, se guardiamo questo, se il presidente della Volkswagen, Diesmann, ha detto che il ritorno, dice che per lui è favorevole gli Eurobond, perché lo capiscono anche i bambini, che non si può andare alla Germania senza salto l'Unione Europea, gli saltano tutti i presupposti per essere la potenza che finora si è dimostrata egemone in Europa. Su questo non ci piove. Cioè, che Trump se la prenda anche con la Germania è evidente, perché l'Europa praticamente in questo formato qua praticamente assegna alla Germania un ruolo egemone. Tutte le economie di scala avvengono in Europa, perché ha un mercato del 60% delle sue esportazioni è in Europa. Su questo non ci piove. E in Germania la cosa sta cominciando a passare, nel senso che c'è tutto uno schieramento politico che va dai socialdemocratici ai verdi, ad una parte, questa è una cosa molto interessante, della CDU, per esempio il presidente della commissione esteri Kretschmann, che tra l'altro è candidato, adesso si candida ma con poche chance a succedere alla signora Merkel, ha detto chiaramente: guardate che dal punto di vista finanziario la cosa potrebbe avere anche se le riserve che avete voi potrebbero avere anche il senso, ma dal punto di vista emozionale è un autogol micidiale, lo capisco a tutti, capisci? Però c'è un punto che c'è una parte dell'opinione pubblica tedesca che è fissa nei suoi pregiudizi, nella convinzione che i migliori sono i tedeschi, tutto ciò che non è tedesco è degno di sospetto, e nel caso specifico degli italiani, sugli italiani la cosa è molto chiara, c'è un pregiudizio di fondo, perché purtroppo c'è una discrasia da quel punto di vista lì, perché l'Italia è una delle maggiori potenze industriali del mondo, perché è nel G7, è la seconda manifattura d'Europa, ha un'esportazione che è fiorente, ha un'attività industriale attiva, però è percepita in Germania come un paese che ha sottosviluppo. E questo perché? Perché purtroppo l'immagine che è passata, il messaggio che è passato dell'Italia è stata quella dei cosiddetti Gastarbeiter, cioè di gente che andava su a lavorare e che portava un'immagine dell'Italia che è quella degli spaghetti, della pizza, del tirare a campare. Ma per carità, guardi, gli stereotipi li abbiamo anche noi, non è questo il problema. Io però la riavrò in collegamento, professore, perché adesso sta iniziando la conferenza stampa della Protezione Civile, quindi ringrazio il professor Alberto Crali, voglio sentire Borrelli negli ultimi minuti che mancano. Negli ultimi minuti che mancano alla fine del programma, per capire come sono oggi. Partiamo dai dati. Oggi il totale delle persone attualmente positive è di 96.877, con un incremento di 1.615 pazienti in più rispetto a ieri. Di questi, 3.605 sono in terapia intensiva. Va segnalato ancora la diminuzione del numero dei pazienti in terapia intensiva e in reparti di cura e di ricovero. Il numero dei pazienti in terapia intensiva diminuisce oggi rispetto a ieri di 88 unità. 28.399 sono i ricoverati con sintomi, anche qui abbiamo un valore negativo rispetto a ieri, diminuiscono di 86 rispetto a ieri il numero dei pazienti ricoverati con sintomi. La maggior parte dei pazienti affetti da coronavirus sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, e il totale dei pazienti in isolamento sono 64.877, il 67% del totale. Oggi ad evidenziarci ancora una volta il calo di pressione nelle strutture ospedaliere è proprio questo dato, che nel solo mese di aprile è cresciuto di 8 punti percentuali. Quindi che cosa succede? Che cresce il numero delle persone in isolamento domiciliare, diminuiscono il numero delle persone che sono ricoverate in terapia intensiva o in reparti ordinari. Oggi registriamo purtroppo 610 nuovi deceduti, mentre il totale dei guariti sale a 28.470, 1.979 in più rispetto a ieri. Le nuove persone contagiate rispetto a ieri sono 4.204, che portano a 143.626 i casi totali, comprensivi quindi delle persone attualmente positive, di quelle decedute e delle persone guarite. Per quello che riguarda le somme raccolte dal Dipartimento della Protezione Civile sul conto corrente delle donazioni, voglio segnalare. Allora, dati oggi, cerco di riassumere come facciamo ogni giorno in chiaroscuro, perché se ieri l'aumento dei positivi, non di tutti diciamo i casi, perché quello tiene dentro anche i guariti e i deceduti, ma dei positivi, ieri era stato di 1.195, il giorno prima di 880 e il giorno prima di 1941, adesso siamo una via intermedia, 1615. La buona notizia invece è che continuano a calare le persone in terapia intensiva. Allora, i positivi sono più 1,7%, ieri erano stati più 1,3%, il giorno prima più 0,9%. Il giorno prima più 2%. La settimana che si va a chiudere avrà questa media, cioè si era partiti sostanzialmente lunedì col 2%, vedremo domani, ma insomma si mantiene intorno al 2,5-2%, più basso della media del 3-4% la settimana scorsa, più basso del 6-8%. 8% di quella prima. I deceduti invece, ahimè, sono stabili, nel senso non stanno calando. Ieri erano 542, oggi 610, il giorno prima, o meglio martedì, erano 604, lunedì 636, domenica, vabbè, ma domenica conta meno. E infatti il numero di deceduti aumenta del 3,5%, ieri è aumentato del 3,2%, il giorno prima del 3,7%, lunedì del 4%. Anche in questo caso si assiste, come incremento percentuale, intorno al 3,5%. Faccio notare che la settimana scorsa viaggiava tra l'8 e il 6%, la settimana prima l'aumento dei deceduti viaggiava tra il 12% e il 10%, quindi c'è comunque una stabilizzazione anche in questo momento dei deceduti, che comunque sono tanti, che 610 persone sono tante. Giustamente mi fa notare che aumentano i positivi ma calano i ricoveri, vuol dire che forse il virus si è un po' attenuato, però insomma sul numero di vittime non ci siamo. A questo punto l'Italia sale a 18.279 vittime, mentre il dato mi sembra più positivo sui nuovi positivi. Guardi, un gioco di parole, sui nuovi positivi, perché il più 1,7% è in linea con quello che abbiamo visto in questi giorni, una mediana di quello che abbiamo visto in questi giorni. Grazie, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, da passare rigorosamente a casa. E poi, come sempre, avremo anche domani, vedremo di commentare che cosa deciderà l'Eurogruppo. Ah sì, buono anche il dato sui pazienti in terapia intensiva, 88 in meno di ieri, continuano a calare e a liberarsi i posti in terapia intensiva.